bisogna combattere assieme la criminalità, le vecchie distinzioni destra-sinistra non contano quando si tratta di dare sicurezza ai cittadini. La nostra astensione è un segnale preciso, ma è anche una richiesta al governo. Più soldi per le forze dell'ordine, perché senza mezzi finanziari non si può essere efficaci nel combattere il crimine. Prendo atto che oggi, finalmente, un'altra delle nostre proposte avanzate ieri è stata accettata, quella di prendere le impronte digitali per tutti, anche per i nostri figli, perché sarebbe stato razzista e discriminatorio prenderle solo per i Rom. Così finalmente si va nella strada della giustizia e anche del rispetto della legalità.